9. Ascolta il testo e indica di cosa si parla. 1. Sono aperte le iscrizioni ai master di secondo livello. Puoi accedere ai corsi se hai una laurea specialistica. 2. Scegli i prodotti a chilometro zero. Con i prodotti a chilometro zero hai i cibi sani a casa tua e salvi il pianeta dall'inquinamento. 3. È una giovane designer della moda italiana, apprezzatissima da stilisti come Giorgio Armani. 4. Alberto Burri è l'artista italiano, insieme a Lucio Fontana, ad avere dato il maggior contributo italiano al panorama artistico internazionale di questo secondo dopoguerra. 5. Più sole su gran parte del nord, Sardegna e regioni tirreniche centrali, nubi al nord-est con piovaschi sul Friuli Venezia Giulia e piogge su coste emiliano-romagnole. Ancora instabile con maltempo sulle regioni adriatiche, temporali in Campania, Puglia, Calabria tirrenica e piogge sul messinese, sparse sul resto del sud.